Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Abbiamo parlato altre volte del cosiddetto energy harvesting, letteralmente mietitura di energia. Il riferimento è alla possibilità, insomma, di recuperare energia, diciamo così, non molto concentrata magari, ma disponibile su larga scala. Un esempio tipico, non so, sono le vibrazioni che auto, camion, treni, insomma, trasmettono a strutture come i ponti, e si immagina di poter raccogliere l'energia di queste vibrazioni un domani e utilizzarla. Ma insomma, il succo è che l'energia si trova un po' ovunque se si trova il modo efficiente per raccoglierla, e in questo caso anche piccoli contributi, se però sono abbastanza numerosi, possono fare, una volta sommati, la differenza. Insomma, mi pare di poter dire che siamo esattamente in questo mood stasera con il progetto di cui vi vogliamo parlare, un progetto di valvole intelligenti messo a punto da Stefano Malavasi e dal suo team. Stefano Malavasi, professore di idraulica del Politecnico di Milano, che è tornato a trovarci. Buonasera Malavasi. Buonasera Melis. Allora, si chiama Green Valve, diciamo, il nome dice tutto. Che cosa fa di speciale questa valvola verde? Beh, questa è una valvola di regolazione a tutti gli effetti. La valvola di regolazione come concetto deve dissipare energia per regolare il flusso. È una di quelle valvole, ecco, spieghiamolo, è una di quelle valvole che stanno dentro gli acquedotti, ce ne sono di vario tipo. Sì, e per regolare il flusso di acqua si aprono e si chiudono tipicamente da remoto queste valvole, no? Sì, queste valvole che dissipano quindi energia. Il concetto della Green Valve è recuperare parte dell'energia che viene dissipata in questo processo, tenendo presente come prima cosa che io devo regolare il flusso, quindi questa rimane una valvola di regolazione che con l'inserimento di una turbina apposita permette anche di recuperare energia, parte dell'energia dissipata. Proviamo a quantificare un po' questa energia dissipata. Sì, attualmente stiamo provando una valvola da 3 pollici nel laboratorio di idraulica del Politecnico di Milano e siamo riusciti ad arrivare a dei rendimenti che per ora sono molto bassi, sono circa il 7%, però l'idea principale è appunto che questa deve regolare. 3 pollici sono 7 centimetri e mezzo circa, un tubo di queste dimensioni, quindi da questa valvola tirate fuori più o meno quanta energia? Tenendo conto di una portata intorno ai 20 litri al secondo, eccetera, riusciamo a tirar fuori qualcosa come 300-400 kWh al mese. Che sono circa una volta e mezzo, diciamo così, il fabbisogno mensile di una famiglia di 4 persone, no? Sì, più o meno. Più o meno, sì. Questa energia che noi recuperiamo è energia che veniva dissipata durante il processo di regolazione e quindi di fatto energia che possiamo recuperare. Ecco, prima veniva dissipata completamente, voi adesso ne recuperate un 7%, che non è tanto, diciamo così, per quello che può fare una turbina. Però voi avevate un'esigenza precisa, no? Che era quella di non sconvolgere la vita ai signori che gestiscono. L'esigenza precisa è di sostituire a valvole di regolazione questa valvola senza dover rifare tutte le tarature dell'impianto o cambiare il layout dell'impianto. Certo, perché queste valvole si potevano anche sostituire con delle turbine, ma sarebbe cambiato tutto, no? Certo, con delle turbine molto efficienti. Per progettare tutto il sistema di distribuzione. Ecco, quindi adesso dove immaginate che possano andare queste valvole? Sì, siamo in contatto con Uniacque e con Alpic. Una è una società, diciamo, che gestisce acquedotti, l'altra è una società che produce energia. Nel primo caso stiamo pensando di inserirla in un acquedotto, nel secondo caso in una centrale di teleriscaldamento come parte dell'impianto. Ecco, ok, e lì avete anche delle idee su, diciamo, sui tempi di ritorno, no, di questo investimento, se non sbaglio? Sì, su un acquedotto se noi contiamo di recuperare circa 400 kWh al mese per valvola, su valvole di piccole dimensioni, siamo sui tempi di ritorno dai 2 ai 3 anni, dipende un po' chiaramente dalle condizioni, certo, al contorno di funzionamento della valvola. Se invece siamo su impianti di riscaldamento, il tempo, diciamo, raddoppia, diciamo, in genere, perché l'impianto di riscaldamento non funziona chiaramente tutto l'anno o parte dell'anno funziona solo per l'acqua calda e quindi a regimi molto più bassi, insomma. Comunque sono dei tempi di rientro piuttosto ragionevoli, no? Nonostante nuova tecnologia, ma non sono cose strane. Sì, quanto dura una di queste valvole, per esempio? Beh, la durata non la sappiamo ancora perché non abbiamo testato. Certamente ha una parte rotante, però si può immaginare che possa durare una decina d'anni. Va bene, allora grazie Stefano Malavasi, in bocca al lupo per questo progetto, per la prosecuzione. Grazie mille, saluti a tutti. Ci sentiamo domani, altro appuntamento con Smart City. Buona serata.